all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Erano i Queen di Innuendo. No, dicevo, non ci credo. Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, un saluto dal DJ Edo Rossi. Come noto passeremo un paio di ore insieme, all'interno delle quali parleremo di diverse cose. Ovviamente ci saranno un po' di aggiornamenti, un po' di news sul mondo del rock, eccetera. Ma sono, poi parleremo naturalmente anche di Telefilm Festival, la manifestazione che ci vede legati grazie al concerto che ci vedrà protagonisti domani sera. Insomma, parleremo di tutto questo più tardi, ci saranno dei collegamenti telefonici con gli organizzatori, eccetera. Però io sono rimasto sconvolto, perché scartabellando tra le varie news e avendo qui in sottofondo ho letto questa cosa che è pazzesca. Cioè, pensate che Brian May, il chitarrista dei Queen, si sta sbattendo e sta facendo di tutto per cercare di salvare una radio inglese che si chiama Planet Rock, che è una sorta di storica radio rock inglese che chiuderà i battenti a fine mese. Non so perché io questa notizia ho come l'impressione di sentirla abbastanza vicina. Non so, qualcuno ha il numero di telefono di Brian May, che gli spieghiamo che c'è anche un emittente che si chiama Rock FM che è grosso modo nelle stesse situazioni. Capisco che, voglio dire, magari Brian May di Rock FM non ne conosce l'esistenza, no? Però visto che sente così forte il legame con le radio, non sarebbe male così provare a sentire cosa ne pensa. Vabbè, lasciamo perdere i soliti sogni. Che dire, sono le 17:15, i numeri per entrare in contatto rimangono sempre gli stessi, la linea SMS 335 100 77 77, nonché l'email edo@rockfamily.it, che come sapete fa capo a quello che è il nostro nuovo sito, la community di Rock FM, che è appunto www.rockfamily.it. Poi, come detto, parleremo anche di altre cose. Mamma mia, sono un po' scioccato. Parleremo anche della nostra apparizione di poco fa a Rock TV. Tutto dopo. Ora c'è Alice Cooper. Cooper, che abbiamo riascoltato con un suo storico successo con la mitica School's Out. Alice Cooper, che come noto l'anno scorso, in occasione tra l'altro della sua data italiana in quel di Sesto Fiorentino, annunciò che il suo disco, che doveva essere di prossima pubblicazione, sarebbe stato posticipato di un anno a maggio appunto del 2008, e ora lo stiamo aspettando. In realtà il materiale è pronto, staremo a vedere quando verrà annunciata la data ufficiale di pubblicazione. In ogni caso sembra che sia solo una questione legata al sistemare alcuni piccoli dettagli, anche perché comunque è stata pianificata la tournée che lo vedrà impegnato per quasi tutta l'estate. Quindi attendiamo nuove notizie di Alice Cooper. Siete su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi, sono le 17:19, tra poco il collegamento con Leo Daverini per parlare di Telefilm Festival e anche un po' di Rock FM o Stars Band. Vuoi non farlo? Vi ricordo i numeri 335-100-77-77, la linea SMS per scrivere i vostri messaggi, richieste di informazioni e cose di questo tipo, oppure l'email edo@rockfamily.it. beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big heart world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Questa è Heart Sun, canzone naturalmente, inevitabilmente abbinata al film Into the Wild, visto che ne è colonna sonora. Eddie Vedder riascoltato su Rock FM. Allora, subito io devo fare un saluto gigante, insomma più tardi verrò a rispondere ai vostri messaggi, li sto intanto raccogliendo, ma devo fare un saluto enorme, un abbraccio al fratello Dabi che ci sta ascoltando dall'altra parte del mondo in diretta dal Costa Rica. Come sapete non è solo un amico ma anche un collega col quale ho diviso le serate del Pacciuco Style, quindi magari qualcuno di voi è anche capitato di incontrarci in qualche locale della Liguria eccetera. Insomma, che si è collegato dal Costa Rica, lui ora è dall'altra parte del mondo, è riuscito a collegarsi grazie allo streaming di Rock FM che trovate sul nostro sito. Grazie Dab, un saluto e un abbraccio, naturalmente speriamo di risentirci presto. Che belle cose, guarda come la famiglia di Rock FM sì, con queste ci permette anche queste carambate incredibili, va bene. A proposito di famiglia, naturalmente non manco di ricordarvi il nostro sito ufficiale, ad ogni annuncio lo faccio, il nostro ufficio, no, più che il nostro sito ufficiale, il nostro sito diciamo di appartenenza, insomma quella nostra community online, ossia www.rockfamily.it. tra poco Aerosmith e collegamento col Telefilm Festival, a dopo.